Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Inizia il riposo del guerriero rotocalco domenicale di Radio 24, che vi accompagna come sempre fino a mezzogiorno. Oggi giocheremo, quindi vi ricordo il numero verde tra pochissimo per cercare di farvi finalmente portare a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it, quindi libri, cd, dvd, videogames e molto altro ancora. Per cercare di portarvi a casa il premio dovrete risolvere il mistero. La risposta può essere un personaggio oppure una delle notizie della settimana, e per arrivarci avrete a disposizione degli indizi musicali. Forse avete già ascoltato il primo indizio di questa settimana, che facciamo di solito sentire durante i programmi di Radio 24. Il numero verde per prenotarvi, eccolo qui, 800 24 00 24. Potete da subito telefonare per poi sentirci appunto alle 11:30. oggi il riposo del guerriero si occuperà di riciclaggio, di verde, di ecologia, di tutto quello che ha a che fare insomma con l'ambiente, dalle piccole che poi si trasformano in grandi azioni quotidiane a quello che veramente si può fare per cercare di salvare questo ambiente che sta gridando sempre di più il suo bisogno di aiuto, e lo fa anche sentire, ci fa sentire quanto sta soffrendo anche con il cambiamento climatico che pare ormai ci sia e che sia inevitabile. Quindi che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Possiamo fare moltissimo, e bisogna anche capire da dove partire, dalle nostre azioni quotidiane sicuramente. Anzi, se voi avete qualche consiglio oppure se volete raccontare qual è la vostra azione quotidiana che fate, oppure qual è la vostra polemica, cos'è che non vi va bene e quindi vorreste cambiare proprio dal punto di vista dell'ecologia, del trattare bene il pianeta, fatecelo sapere con un sms, il numero 349 238 6666. Questo è il grido di Michael Jackson invece di Our Song, la canzone della Terra, un video straordinario che inizia in un modo e poi finisce in modo catastrofico, perché la Terra viene distrutta e solo i bambini saranno quelli che potranno salvare il mondo. È veramente un po' è così. Allora, innanzitutto vorrei iniziare ricordando agli ascoltatori che la settimana dal 20 al 28 novembre sarà la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, per cui l'evento si propone di far capire come è importante, quanto sia anzi importante riciclare in modo corretto. Fra l'altro questo evento è patrocinato dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell'Ambiente e servirà proprio a farci capire l'impatto che i nostri consumi e abitudini hanno sull'ambiente e anche sul clima. Quindi una settimana ricchissima di eventi, e io invito gli ascoltatori ad andare sul sito che è menorifiuti.org. Si chiama così per capire nella vostra città quale sarà l'evento durante la settimana per parlare di questo. Tra l'altro, se facciamo la spesa, per esempio, portandoci da casa una borsa riutilizzabile, abbiamo una sorta di risparmio doppio, perché si risparmiano 40 euro all'anno che restano nelle nostre tasche e poi soprattutto 6 kg di plastica in meno nell'ambiente. E 6 kg io, 6 kg tu, alla fine, insomma, significa tonnellate di rifiuti e poi anche emissioni, insomma, veramente il discorso è ampissimo. Io comincerei a parlarne con Chiara Ceci, che saluto. Buongiorno Chiara. Buongiorno Stefano. Chiara è la coordinatrice di un'opera tematica della UTR, si chiama Ecosfera, e la citiamo perché intanto quest'anno è l'anno dedicato alla biodiversità, le Nazioni Unite l'hanno identificato come tale, giusto? Certo. Esatto, sì, il 2010 è l'anno internazionale della biodiversità. Ecco, quindi voi avete pensato di creare quest'opera su carta rigorosamente riciclata per parlare in dettaglio di quello che è il mondo e l'ecologia e tutti gli aspetti che riguardano questo argomento. Sì, allora l'opera è un'opera in 7 volumi addirittura, che raccoglie diverse riflessioni di alcuni grandi pensatori passati ma soprattutto presenti sul appunto il futuro del nostro pianeta. E partiamo dalle tematiche più immediate, quindi quali sono i momenti di crisi che il nostro pianeta sta vivendo, per poi riflettere su quello che possiamo fare. Quindi non c'è uno sguardo catastrofista, ma è uno sguardo di ambientalismo scientifico, quindi cosa ci dice la scienza, quali sono i fatti e quali sono le crisi, quali sono i momenti appunto che noi stiamo attraversando, ma quali sono le opportunità che la scienza e la tecnologia possono darci per appunto superare i problemi. Quindi se affrontiamo l'argomento della crisi, della fine del petrolio, delle energie non rinnovabili, con un saggio affidato ai più grandi esperti italiani o stranieri, poi ci portiamo però anche a riflettere sulle nuove tecnologie, quali sono le speranze che appunto abbiamo e su cui dobbiamo investire, proprio perché ci si possa informare in modo molto accurato su quelli che sono le problematiche, ma anche le soluzioni, quindi da un punto di vista propositivo ovviamente. Ma ci interessava parlare di quest'opera anche perché esiste un libro gratuito, adesso poi vi racconteremo come averlo, con degli ecoconsigli, ovvero le 100 azioni quotidiane che servono ad aiutare il pianeta, perché da un punto bisogna cominciare, credo che questo punto sia la nostra quotidianità. Ti chiedo, Chiara, di restare con noi, gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlarne. Strade in diretta. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, il traffico è bloccato e c'è un chilometro di coda per un'auto in fiamme all'interno della galleria Gran Sasso. Lungo la 14 Adriatica ci sono code per un incidente tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona, mentre sul tratto bolognese ci sono code per il traffico intenso all'uscita di Bologna Fiera, sempre sulla carreggiata sud. La nebbia riduce la visibilità sulla 14 tra Forlì e Marotta, lungo l'autosole tra Reggio Emilia e Modena Nord, in Toscana sul tratto appenninico e tra Firenze Sud e Incisa. Manchi di nebbia anche in Piemonte sulla 6 Torino-Savona e sulla 32 Torino-Bardonecchia, nebbia anche in Abruzzo sulla 25 Roma-Pescara tra Vezzano e Sulmona. Per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Chiara Ceci, allora parliamo di questo libretto, si chiama Eco Consigli, 100 azioni quotidiane per aiutare il pianeta. È un libretto non in vendita e lo si può richiedere, poi spiegheremo come, in modo gratuito, e che ci insegna ad avere un comportamento corretto proprio da un punto di vista ecologico quotidianamente. Io, siccome il libro è diviso in argomenti, vorrei partire dai trasporti. Ok. Perché sì, c'è una cosa che mi sta molto a cuore e che io ho sempre pensato e nel mio intimo sostenuto, ma non l'ho mai raccontata, non l'ho mai urlata, invece ho voglia di farlo perché ho visto un capitoletto intitolato La strada di scuola. È mai possibile? Io mi ricordo, insomma, io sono sempre andato a scuola da solo e avevo un bel po' di strada da attraversare per raggiungere la scuola, oppure prendevo i mezzi pubblici quando necessario, però i miei davvero non mi hanno mai accompagnato se non il primo giorno, ma anche da quando avevo 6 anni, 7 anni, e si faceva così. Insomma, io ho 46 anni, non è che poi sia così vecchio. E perché oggi bisogna accompagnare i figli a scuola per forza, anche se sarebbero capacissimi di andare da soli, con i mezzi pubblici, in bicicletta, a piedi? Beh, è veramente solo la paura che... Sì, diciamo diciamo, a volte c'è anche la fretta, forse di non aver voglia di passeggiare con, o di non potere, perché si è appunto di fretta a dover andare a lavoro, di dover portare il figlio, scaricarlo a scuola e poi andare. È proprio a fare... scaricarlo, lo devi buttare perché è il tempo. Sì, poi... perché non ci si può neanche fermare davanti alle scuole, no, con tutto il traffico. No, e poi come dici, forse è anche una questione sì di paura, di insomma, non c'è più questa abitudine, che invece concordo, era molto bella. Anch'io spesso andavo a piedi, abitavo vicinissimo alla scuola, però era molto bello, comunque un momento anche interessante, no? Il genitore che accompagna a scuola il bambino e poi lo va a prendere, se proprio quando è piccolo, oppure il ragazzo che inizia, appunto, si crea un'autonomia e va da solo. Io ricordo per esempio che andavo anche in bicicletta a volte, altro mezzo che andrebbe, come abbiamo in altri punti delle ecoconsigli ribadito, andrebbe forse rispolverato dalla soffitta, perché soprattutto nelle belle giornate che ci sono nel nostro paese è veramente un mezzo piacevole e assolutamente ecologico. Ecco, quindi molto dipende veramente dalla nostra cultura, dalle nostre abitudini e anche forse dalle nostre paure. E ci sono appunto 100 buoni consigli e io adesso non posso certo elencarli tutti. Quali sono quelli che così vuoi raccontare ai nostri ascoltatori, perché in qualche modo ti hanno colpita? Guarda, io sono molto colpita da quelli legati all'acqua, perché l'acqua è un bene che spesso diamo per scontato. Ma come, tanto ce l'abbiamo, basta lasciare, certo, il rubinetto aperto. Apri il rubinetto e ne esce quanta vuoi, è vero. Però prima di tutto ovviamente l'acqua ha un costo, a parte che non è così in tutto il mondo. Questa è un'altra cosa che noi sia in Ecoconsigli ma anche in Ecosfera abbiamo cercato di inserire, perché quello che per noi è nel nostro locale è scontato, i beni che abbiamo a disposizione non lo è per tutti, e questo è un tipo di riflessione che va fatto, visto che il mondo, l'ecosfera appunto è di tutti, quindi i rifiuti che noi produciamo, l'inquinamento che mettiamo nell'aria, l'acqua che utilizziamo sono di tutti e vanno poi a ricadere su tutti. Dicevo dell'acqua perché appunto ne esce quanta vogliamo e quindi ci facciamo docce lunghissime, bagni infiniti, usiamo lavatrici e lavastoviglie a mezzo carico, allora, con temperature altissime. È vero, io qui consiglio, guarda, c'è un interruttorino da mettere tra il cordone del doccino, in poche parole, e il dove parte il getto, e un interruttore meccanico che chiude l'acqua, ma lasciando in questo modo il miscelatore nella sua posizione, senza doverlo chiudere, si clicca soltanto questo interruttore, diciamo così. In questo modo la temperatura dell'acqua rimane la stessa, quindi, perché sai, chiudendo il miscelatore poi ora che ritorna calda, molti tengono aperta l'acqua della doccia per quel motivo, e quindi quando ci si insapona sarebbe utile, certo, premere l'interruttore. Quando ci si lava, ecco, i denti mentre si spazza si può spegnere. Come no? Ma non lo facciamo. Non lo facciamo, ecco, mai. No. Quindi... E poi un'altra cosa, sì, è per esempio di la cosa più banale, di berla l'acqua che esce dal rubinetto. Sì. Chi non ha problemi legati a un diciamo sanitario che deve per forza bere un'acqua particolare, io abito a Milano e l'acqua di Milano è buonissima. Ci sono anche dei test che si possono fare. Assolutamente sì. È solo un po' dura, ma ci sono ormai molte possibilità, sì, di filtrarla, molte, per evitare, certo, il calcare. Molte possibilità, anche perché non solo è una cosa, ma appunto interessante da scoprire, che l'acqua che usiamo per fare altre cose è buona da bere, ma addirittura ci permette di risparmiare, di non dover trasportare acqua appunto in bottiglia, di non avere queste bottiglie in giro, quindi si innesca una serie di altri diciamo benefici che forse non sappiamo neanche di fare. E anche lì per pregiudizio, no? Perché, certo, temo che l'acqua del rubinetto sia sempre cattiva, questo è proprio un pregiudizio perché non siamo sufficientemente informati. Vogliamo ricordare, Chiara, com'è possibile avere questo libro, appunto, gli ecoconsigli, 100 azioni quotidiane per aiutare il pianeta? Sì, allora, come dicevi giustamente prima, il libro non è in vendita, ma bisogna chiamare un numero verde, appunto, oppure andare sul sito di UTET Cultura, però nella parte promozionale, e insieme al FAI appunto il UTET manderà a casa questo libro. Fino a esaurimento scorte. Fino a esaurimento scorte, certo. E ovviamente il libro è stampato su carta completamente riciclata. Il numero verde ve lo dico io. io. 800 97 97 40, lo ripeto, 800 97 97 40. Ecco fatto, grazie Chiara Ceci, speriamo di partire da qui almeno, okay. Grazie, buon lavoro. Grazie davvero, intanto arrivano molti messaggi, grazie. Buongiorno, sono a guardia di un campo fotovoltaico in fine costruzione e qua si cerca di salvare il mondo, ma si lascia la plastica dappertutto. Lucio dalla provincia di Bari. E poi ancora, buongiorno, sono Alessia di Verona, dice forse questo è un argomento che fa paura ai media, parlare degli inceneritori. Io volevo così dire, se avete visto Toy Story 3, un grande film, ultimo film di Pixar, un cartone animato che parla di amicizia sicuramente, dei giocattoli maltrattati dai bambini, ma si occupa anche di ecologia, come è già stato con Wall-E 2 anni fa, e c'è una straordinaria sequenza proprio ambientata nell'inceneritore, dove si vede che cosa succede all'interno di una apparecchiatura di questo genere, e i bambini lì possono già avere così, dare un occhio a come vengono divisi per esempio i metalli dal resto dal resto dei materiali. Insegno in una scuola che costruisce macchine per la produzione di energia fatte con materiali riciclate. www.ipsiasannazzaro.splinder.com. Grazie Davide, questo è un messaggio. E poi ancora, io e mia moglie laviamo i piatti con cenere di legna e aceto, vengono benissimo. Fiorenzo Bresciani, buongiorno, è vero che la cenere di legna e l'aceto fanno splendere i piatti? Buongiorno, certamente. Eccolo, certamente là. Come già i nostri nonni facevano ai suoi tempi. È vero. Allora, intanto Fiorenzo Bresciani è presidente dell'Associazione Uomini Casalinghi, ha appena pubblicato un libro, si chiama Pulire al Naturale, edito da Terra Nuova Edizioni, è per questo che ho introdotto così. Allora, noi possiamo pulire senza usare i detergenti che certamente acquistiamo. Ecco. Certamente, possiamo fare un detergente naturale in casa nostra spendendo pochissimo e molto efficace. Per esempio 500 ml di acqua e un cucchiaino di bicarbonato all'interno. Muovere il cosino e lo spruzzino, spruzzare su qualsiasi superficie, sia lucida che opaca, oppure frigorifero, un lavello in acciaio. In quella maniera andiamo a pulire profondamente senza inquinare e senza spendere troppo. Ecco, senta, se dobbiamo sbiancare, per esempio, dobbiamo lavare i panni, però vogliamo anche avere quel bianco. Sai, i detersivi contengono l'azzurrante, in realtà è un trucco ottico, viene messo dell'azzurrante nel detersivo, per cui il bianco, siccome diventa un bianco freddo, sembra più bianco, in realtà è un pochino più azzurro, questa è la verità. Diciamo così che il bianco più bianco non esiste assolutamente. infatti il bianco. Ma come? Siamo nati ascoltando che c'è il bianco più bianco. So, siamo nati, ma in realtà è tutto uno scopo pubblicitario, ma con gli sbiancanti, invece in realtà il vero pulito, come sapevano i vestiti dei nostri nonni, rimane su un po' sul grigiastro, non sa di pulito ma non sa di nessun odore. Certo, ma possiamo profumare in qualche modo la nostra biancheria che laviamo senza inquinare? Ma certamente possiamo aggiungere delle oli essenziali, oppure della lavanda, oppure delle bucce magari di arancia seccate sul termosifone, possiamo metterle, può dare quella profumazione che vogliamo noi, certamente. Senti, un problema assillante per molti è il calcare. Mamma mia. Terribile. Quindi cosa possiamo fare? Ma per il calcare, infatti, le nostre acque italiane sono abbastanza calcarose. Lo sappiamo. Prendiamo dell'aceto, se l'aceto freddo non riesce a mandare via questo calcare, lo scaldiamo e lo spruzziamo con lo spruzzino su qualsiasi superficie, bagno, cucina e anche pavimenti. Ecco, in quella maniera andiamo a portare via tutto il calcare, perché l'acidità dell'aceto è così forte che va a portare via qualsiasi tipo di calcare. E infatti funziona, insomma, chi l'ha provato lo sa. Poi c'è l'odore dell'aceto, ma si potrà togliere anche quello. Fiorenzo, io ti chiedo di restare con noi e voglio invitare anche gli ascoltatori che avessero qualche curiosità sul come pulire al naturale la casa, così poi Fiorenzo ci darà una risposta. Il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Buongiorno, sono Christian Boiron, presidente del gruppo Boiron.

Ecco, poi nel tuo libretto c'è un capitolo molto interessante dedicato al come pulire le scarpe e mi incuriosisce questo fatto di usare la buccia della banana, è vero? Sì, va praticamente a lucidare, a dare quella lucentezza che magari se noi dobbiamo dare per forza alla cera. Ecco, con l'interno della buccia, non l'esterno. Voi dovete prima sbucciare la banana così poi ve la mangiate, la fate in Macedonia o quello che volete. Poi non buttate via la buccia, ma sfregatela sulla scarpa. Esatto, e poi altro consiglio che darei per le scarpe io anche è di usare molto il bicarbonato di sodio. Magari le scarpe da tennis, le scarpe da ginnastica, quando arriviamo a casa il sudore dei piedi ha quella sensazione sgradevole, aggiungere gran parte del bicarbonato di sodio all'interno, perché lì va a togliere l'umidità e va a togliere quell'odore sgradevole delle scarpe. Ecco, così hai dato un altro uso del bicarbonato ed è uno degli ingredienti che viene più richiesto nei nostri SMS. Vado avanti con le domande, Fiorenzo, perché sono tante. Mi chiedono se è possibile mettere aceto nella vaschetta della lavatrice senza dover mettere un altro prodotto anticalcare. Allora, bisogna assolutamente fare così. Per fare una buona lavatrice o lavastoviglie, aggiungere il bicarbonato di sodio insieme al detersivo. Perché? Perché il bicarbonato di sodio aumenta le proprietà del detersivo. E non solo, va a togliere la durezza dell'acqua e perciò sia i panni vengono più morbidi e le stoviglie vengono senza gli aloni, vengono puliti. Però bisogna anche dire che nella lavastoviglie possiamo anche in lavatrice aggiungere l'aceto bianco, come al posto del brillantante e al posto dell'ammorbidente. Ecco, per aceto bianco cosa intendi? Quello di mela, per esempio, non quello di vino? Quello di vino è un pochino più forte come acidità, quello di mela è più leggero, possiamo usare tutte e due tranquillamente comunque. Ok, perfetto. I consigli sarebbero veramente tantissimi, potremmo andare avanti tutta la giornata a darli, perché insomma la casa poi è ricca di parti da pulire purtroppo, per cui però a questo punto insomma pensiamo di aver dato già qualche indicazione, grazie anche agli ascoltatori, continuate a scrivere e anche dare i vostri consigli e grazie a te Fiorenzo Bresciani, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Pulire al naturale. Visto che siamo stati in casa, andiamo in casa di Federico Taddia. Ciao Federico, buongiorno. Venite a fare le pulizie da me, grazie. Tu conduci l'Alta Europa, dovresti condurre anche l'altra casa. La tua è un'altra, è una casa bio tutto a quanto pare, perché come sono i pavimenti, dico cosa sono i pavimenti, questa cosa mi ha colpito molto. Allora, i pavimenti, per fare il pavimento esterno, se lo vuoi fare in legno, ti propongono dei legni molto duri. Sì. Sono tutti legni che arrivano dal Centro America o comunque da zone protette, quindi questa cosa non mi è piaciuta. Mi sono attaccato in internet, sono stato 3 giorni a cercare materiale alternativo, ho trovato un pavimento per esterni fatto con le bucce di riso. E quindi bucce di riso che verrebbero gettate via, invece le comprimono insieme a degli oli naturali. Mm. E è venuto fuori un pavimento fantastico. E con il sole cosa succede? Perché se questa forse è un po' la paura, no? Pure che no, non si scuoce. No, non voglio dire che si scuocia, però se cioè come si comporta con il cambiamento termico, visto che è un esterno, quindi col molto caldo e magari anche il molto freddo. Sai che l'ho già sperimentato col molto caldo di quest'estate, con molto il freddo, la molta neve di quest'inverno ed non c'è stata la minima modifica. Col caldo c'è una minima dilatazione, ma è voluta, è richiesta. Quindi sì, questo è normale, poi accadrebbe anche, voglio dire, con altri materiali, anche naturali. Poi ricordiamo che i materiali naturali sono vivi molto spesso, quindi in qualche modo si adeguano e si adattano anche al clima. Allora Federico, il pavimento esterno appunto in buccia di riso, ma la tua casa non si ferma lì. Guarda, io ho avuto la fortuna di potermi fare una casa nuova. Un paio di anni fa abbiamo fatto questa scelta forte con mia moglie, un po' estrema, di cercare di fare una casa che fosse il più naturale possibile, la più anche immersa e coerente con l'ambiente esterno. Quando tu parli di casa ecocompatibile sono due le direzioni, no? È un massimo di risparmio energetico in modo da non produrre poi CO2 e la scelta di materiali appunto a impatto ambientale minimo. E per fare questo siamo partiti acquistando una casa prefabbricata in Austria, dove c'è una cultura molto più avanzata rispetto a questo tipo di case, una casa in legno e vetro. E poi la vai a disegnare anche un po' usando il buon senso, e tante sono le vecchie regole che usavano anni fa quando costruivano le case in campagna. unite invece all'innovazione tecnologica, quindi disegnate in modo che a nord ci sono pochissime finestre, una superficie minima di esposizione al sole, a sud invece solo vetro, in modo che tu d'inverno possa riscaldare la casa utilizzando il sole, d'estate invece c'è un oscurante che permette di far entrare la luce ma lascia fuori il calore, e questo di fatto è il mio riscaldamento. L'energia invece per riscaldare l'acqua la produco col geotermico, quindi anche qui sfrutti la possibilità che il sottosuolo ti dà, perché questo differenziale caldo e freddo con la superficie ti permette di fare caldo, caldo d'inverno e riscaldare d'acqua e anche raffrescare l'estate senza avere il condizionatore d'aria. E poi vale la ricerca dei materiali, quindi se devi comprare del legno vuoi che questo legno sia certificato, se devi usare delle vernici vai a cercare vernici che non abbiano sostanze tossiche in mezzo. Poi è vero, sono sostanze naturali, quindi invece di avere una varietà di 150 colori devi scegliere tra tre colori, però sono dei compromessi che ci sono piaciuti e ti danno un'ottima vivibilità quando sei dentro ti senti meno in colpa nei confronti dell'ambiente. Allora Federico, io adesso ho due domande e non voglio però toccare la sensibilità di nessuno, né tua né di tua moglie, certo. Però la mia curiosità è questa: questo genere di case non risultano poi all'occhio essere un po' bruttine tra virgolette, o è semplicemente un fatto di abitudine? Allora, vanno bene entrambe le risposte, nel senso, certo, come no. La mia è oggettivamente bruttina all'occhio di tutte le case che ci sono intorno, è un po', se immagini, la classica casetta anni 70 ma anche anni 90 della pianura padana, e non ti parlo invece delle vecchie cascine, delle vecchie stalle, è tutta un'altra cosa, certo. Perché assomiglia più a una concessionaria d'auto, no? Cioè, se io ci scrivo sopra una qualsiasi marca uno ci crederebbe, insomma, qualcuno potrebbe fermarsi, sì. Perché cioè, dall'idea del salone. E nello stesso tempo però è anche l'abitudine, cioè questa è una casa che è vista da qualcuno che è venuto per esempio dal nord Europa, una casa bellissima, molto uguale a tante che ci sono da noi, quindi è veramente l'occhio un po' abituato a certi canoni e questo un po' stacca. E a me, cioè, continuo a dire che da fuori è oggettivamente brutta, ma non mi interessa perché è oggettivamente vivibilissima. No, ma infatti era soltanto così. Ma non è mica la sensibilità, guarda, è una cosa che discuto con amici, con i vicini, è una cosa altra, una cosa diversa. Mentre la costruivamo, perché sì, queste case vengono costruite tipo i Lego, cioè arrivano giù i pezzi già fatti, considera che la mattina di quel martedì in cui hanno iniziato a costruirmi la casa c'erano solo le fondazioni, e alla sera avevano già costruito l'intero primo piano, hanno chiuso la porta a chiave ma hanno dato le chiavi con già le finestre e attaccato tutto, e c'erano tutti i muratori della zona che guardavano, guardavano e dicevano attoniti, dicevano: tu la favola dei tre porcellini la conosci, vero? Certo. Il legno viene giù. Speriamo di no. Federico, senti, e poi da un punto di vista del risparmio, cioè il costo poi della casa rispetto a una casa normale, chiamiamola così, insomma, per renderci la vita più facile, se per esempio diventa più costoso, alla fine i costi sono molto simili, con il risparmio che poi però arriverà dopo, esatto, se nel caso dovesse costare di più, appunto. Tu hai un leggero, cioè i costi sono simili o leggermente superiori, dipende dal tipo di impiantistica, sì, che vai a inserire. Però poi hai un risparmio che è pazzesco quando ti arrivano le bollette. Io non ho l'allacciamento al gas, faccio tutto con l'energia elettrica, però ho il pannello fotovoltaico che quindi mi copre questa spesa, ma veramente soprattutto per quello che riguarda il riscaldamento, si riscalda vivendola, perché non hai dispersione energetica, che è il grande male invece delle case in muratura, no? Perché vengono fatte senza queste attenzioni di materiali. Per fortuna adesso anche lì c'è una nuova cultura, però che va ancora tanto, tanto alimentata, quindi hai veramente un risparmio in termini di bolletta che è clamoroso, che è quello che fa la differenza, e non produci CO2, che quella cosa ti piace. Ecco, quindi guarda Federico, noi siamo felici per la tua casa, io sono felice per te, e anche perché hai dimostrato con il sorriso nella tua voce quanto sia comunque piacevole, insomma, fare qualcosa per se stessi, in qualche modo anche per il pianeta, e come diceva la nostra ascoltatrice, soprattutto per salvare noi. Grazie Federico. Grazie a voi, buona domenica. Grazie, grazie, grazie. Ho una canzone molto divertente che parla proprio di riciclaggio e voglio farvi ascoltare per introdurre il prossimo ospite. ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Voglio diventare un cittadino modello, solo l'essenziale eliminando il superfluo. Voglio ripulire questa giovine Italia, stanco del problema rifiuti della Campania. Eccolo qua, sentito la raccolta differenziata, Jacopo Ratini, e mi faceva sorridere il testo di questa canzone, ma anche ascoltatori dicono: sono gesti piccoli ma quotidiani che compio, cerco di riciclare con buon senso, e se tutto il mondo lo facesse, che felicità. Così scrive Laura, e speriamo che sia così. Umberto Raiteri, buona giornata. Buongiorno a tutti. Umberto Raiteri è presidente e amministratore delegato della European Recycling Platform, ERP per dirlo in italiano ed essere chiari, che si occupa proprio di riciclaggio di un certo tipo, Umberto. Sì, allora noi ci occupiamo dei famigerati RAE, che è un bruttissimo acronimo in italiano che sta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè in pratica tutti gli elettrodomestici alimentati a elettricità o a batteria che utilizziamo nelle nostre case. Praticamente tutti. Lavatrici, frigoriferi, TV, telefonini, giochi, strumenti musicali, veramente tutto quello che abbiamo in casa e che di solito ci allieta la giornata. Ecco, voi siete un sistema collettivo paneuropeo senza scopo di lucro, giusto? Cosa significa questo? Dunque, i sistemi collettivi sono una struttura che si è creata a partire dal 2005 per rispondere alla normativa, alla direttiva europea che ha imposto a tutti i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche di occuparsi non solo della produzione e della vendita dei propri prodotti, ma anche della raccolta e del riciclaggio una volta che questi prodotti arrivano a fine vita. Quindi hanno i produttori, siccome il loro lavoro principale è quello appunto di produrre e di vendere gli elettrodomestici, hanno creato questi sistemi collettivi per occuparsi anche del loro riciclaggio, quindi. Esattamente, e quindi noi lo facciamo per nome e conto di oltre 1500 aziende, produttori, sì. in Europa, e lo facciamo in modo che gli elettrodomestici vengano recuperati e soprattutto poi vengano trattati e riciclati rispettando le norme. Le normative, norme, ecco. E gli standard di qualità, di sicurezza massimi. Ecco, ci sono cose che noi cittadini dobbiamo assolutamente sapere, e dei diritti che abbiamo da questo punto di vista. Ne parleremo tra pochissimo. Umberto, ti chiedo di restare in linea con noi. Ci sono gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare. Il punto di forza di un'economia moderna è la professionalità dei lavoratori. Anche le competenze più qualificate hanno bisogno di aggiornamento. Per questo Confindustria, CGIL e CISL e UIL hanno creato Fondi Impresa. Fondi Impresa finanzia da anni la formazione continua in tutte le aziende italiane. Oltre 72.000 imprese hanno già aderito. Più di 1 milione di lavoratori ha già fatto formazione. Con Fondi Impresa le persone valgono di più. E le aziende recuperano competitività. www.fondimpresa.it. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Lungo la 14 Adriatica il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Civitanova Marche e Loreto sulla carreggiata nord. La circolazione è scorrevole sul resto dei percorsi, i disagi maggiori sono causati dalla nebbia che riduce ancora la visibilità sulla 14 Adriatica tra Forlì e Marotta, lungo l'autosole in Toscana sul tratto appenninico e tra Firenze Sud e Incisa. Banchi di nebbia anche in Piemonte sulla 6 Torino-Savona e lungo la 32 Torino-Bardonecchia e in Abruzzo sulla 25 Roma-Pescara tra Avezzano e Sulmona. Piogge sparse inoltre sono in corso sulle regioni del nord-ovest. Per il momento è tutto, noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Trovare sul mercato una polizza auto completa è veramente difficile. Chilometri sicuri di Unipol Gruppo Finanziario rende più piccoli i rischi della strada e più grande la convenienza. Offre un innovativo sistema satellitare che attiva automaticamente la procedura di soccorso stradale in caso di necessità, permettendo di ricostruire la dinamica di un sinistro. Aiuta a ricercare il veicolo in caso di furto e con la tariffa a chilometro fa pagare solo in base ai chilometri percorsi, non un metro di più. Maggiori informazioni su Chilometri Sicuri nelle agenzie Aurora e Unipol di UGF Assicurazioni o sul sito www.ugfassicurazioni.it. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di ecosostenibilità, di riciclaggio. Al telefono adesso c'è Umberto Raiteri, presidente e amministratore delegato della European Recycling Platform, questa piattaforma è nata, è un sistema collettivo da molte società europee per il riciclaggio dei RAE. Allora, ripetiamo questa parola anche perché Umberto molto spesso leggiamo nei cartellini dei prezzi o nei volantini di molte catene di materiale elettronico e questa scritta oneri RAE assolti, cosa significa? Ecco, gli oneri RAE sono praticamente la parte di costo del prodotto che i produttori hanno assunto proprio grazie a questa normativa europea che ha dato questa nuova responsabilità per raccogliere e riciclare le apparecchiature elettriche e elettroniche quando diventano rifiuto. Quindi quando una persona va in negozio e acquista una nuova TV o un nuovo computer, sa che all'interno del prezzo di acquisto una piccola parte di questo prezzo è stato dedicato dal produttore a coprire appunto i costi di recupero e riciclaggio. Dello smaltimento, quindi del riciclaggio di quell'apparecchio, in realtà, di quello che stiamo acquistando, giusto? Esatto, diciamo che ovviamente ci sono i 10 anni o 5 anni di ciclo di vita del prodotto che vengono tenuti in considerazione in un modo particolare, cioè quando uno acquista una nuova apparecchiatura può restituire il vecchio televisore che non funziona più e questo ecocontributo RAE che lui sostiene quando acquista il prodotto viene utilizzato per riciclare, quindi trattare e smaltire il vecchio televisore che lui ha restituito. Ecco, noi quindi che cosa possiamo pretendere? C'è qualcosa che possiamo pretendere come consumatori da questo punto di vista? Assolutamente, tutti i consumatori hanno il diritto di riportare, quindi di restituire il vecchio prodotto che è diventato rifiuto al momento dell'acquisto di un nuovo senza alcun costo aggiuntivo. E lo stesso lo si può fare se invece di acquistare un prodotto nuovo uno decide di comunque portare in una piazzola di riciclo un vecchio elettrodomestico, uno lo può portare, lasciare lì e fare questo a titolo assolutamente gratuito. Ecco Umberto, un problema sono le batterie, quelle che noi usiamo nei telefonini ma anche quelle che usiamo nei giochi, nei giocattoli, nelle apparecchiature elettroniche e anche le batterie bottone molto inquinanti, immancabilmente vanno a finire nel sacchetto dei rifiuti, nella pattumiera, no? Ecco, purtroppo sì, e dico purtroppo perché le batterie contengono appunto tra i materiali peggiori e più dannosi a lungo termine che si possono immaginare. Ma sono così piccole, scusami. Lo so, infatti è un gesto proprio di pochi secondi che se uno invece si fermasse a pensare a che cosa sta buttando, quindi sta buttando alcuni grammi di mercurio che per secoli potranno poi inquinare le falde se queste pile vanno in discarica. Certo. E uno dovrebbe un attimo fermarsi e metterli da parte e la prossima volta che va al supermercato buttare le pile negli appositi contenitori. Però Umberto, sinceramente, questi appositi contenitori delle pile, io guarda che li vedo veramente molto molto molto di rado. Ecco, non voglio dire mai, perché però vorrei anche quasi dire mai, l'avrò visto una volta, due. Direi che hai ragione, però su questo c'è una bellissima novità, perché sulle batterie sì, la stessa normativa europea che ha regolamentato 5 anni fa i RAE Da quest'anno regolamenterà anche lo smaltimento delle batterie, quindi proprio a partire da adesso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, voi vedrete in Italia molti più contenitori, molte più possibilità di appunto lasciare smaltire le batterie in modo corretto. Tra l'altro ERP è uno dei sistemi collettivi che si occuperà o sta partendo adesso a occuparsi proprio dello smaltimento delle batterie. Questa è una bellissima notizia. Allora, visto che voi siete presenti in 11 paesi europei, volevo capire l'Italia com'è messa rispetto a Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, eccetera. Dunque, posso dire da italiano che si occupa appunto a livello europeo di queste attività, posso dire che l'Italia è partita molto male, molto in ritardo, purtroppo come ultimo paese a implementare questa direttiva, però lo sta adesso, diciamo che sta recuperando molto velocemente il tempo perduto. Allora, in Italia adesso stiamo già recuperando 3 chilogrammi di rifiuti elettrici e elettronici per abitante. Questo numero sta crescendo in maniera molto molto veloce, grazie appunto anche a tutte le attività che si sono lanciate, però è molto ancora lontano dall'eccellenza che in Europa è rappresentata dai paesi scandinavi, dove hanno un recupero di chilogrammi di 18-19 chilogrammi per abitante. Questo insomma un po' ce lo potevamo aspettare, perché su questi argomenti loro sono sempre avanti. Io volevo anche dire una cosa, per sensibilizzare il pubblico più giovane proprio sull'importanza della raccolta dei RAEE, dei rifiuti, quindi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, all'Alcatraz di Milano il 23 novembre alle 21 ci sarà una festa speciale, è un concerto con tre gruppi che sono i Minis, i Corni Petra, Linea 77, tre gruppi rock, per unire i giovani e far capire quanto sia importante riciclare. In realtà è una festa, sarà semplicemente appunto un concerto all'Alcatraz, assolutamente gratuito. Questa è un'iniziativa che è avvenuta in tutti i paesi europei, fra cui come Milano per l'Italia. Esatto, perché? Questo è quello che noi chiamiamo European Recycling Party, quindi è proprio una festa dove vogliamo connettere il nostro lavoro e quindi il fatto del recupero, dello smaltimento corretto di questi prodotti con dell'arte. In questo caso è la musica, e ovviamente la musica di un certo tipo, quindi cercando di mandare un messaggio, di aumentare la sensibilizzazione dei ragazzi delle generazioni, diciamo dai 15 ai 25 anni, che sono tipicamente la fascia di popolazione più difficile da raggiungere e da sensibilizzare. Quindi abbiamo pensato di fare questa iniziativa a Milano, in una sede molto importante come l'Alcatraz, per appunto diffondere un attimo questo messaggio, per fare in modo che questi ragazzi, quando tornano a casa, non solo faranno il famoso gesto di fermarsi e non buttare nel cestino, ma anche diffonderanno le loro famiglie. Certo, il passaparola, che poi è la cosa più importante. Ve lo ricordo, l'Alcatraz, concerto gratuito, 23 novembre alle 21. Umberto Reiteri, io ti ringrazio e insomma speriamo che l'Italia possa diventare fra le prime bandierina, quindi verde e non più, non dico rossa, ma gialla in questo momento. Grazie ancora. Senz'altro, grazie a voi. Ecco il sito, ve lo ricordo, per vedere date se volete e informazioni: www.erp-recycling.it. Il riposo del guerriero. È 11:07, oggi riposo del guerriero è ecocompatibile e stiamo parlando infatti di questo. Io vi ringrazio per i tanti sms e con molte curiosità, alle quali io assolutamente non so rispondere, non saprei neanche a chi far rispondere a queste domande. Sono curiosità interessanti: dove vanno a finire i mozziconi di sigaretta, come possono essere riciclati, gli accendini fatti in tanti pezzi, poi i bicchieri, perché per esempio si possono riciclare i bicchieri dello yogurt e non quelli del caffè, oppure i piatti, le posate di plastica. Io queste cose non le so. Marianna Sansone, buona domenica, ciao. Buona domenica a te e a tutti. Tu sai rispondere a queste domande che ho fatto? Allora, sì. Da dove inizio? Non lo so, intanto comincio a presentarti, perché se no... Allora, Mariana Sansone è la responsabile del sito econote.it ed è un sito dedicato all'ambiente e all'ecologia. Ci sono tanti blogger che partecipano proprio a questo sito, appunto, e ognuno scrive il proprio pezzo, funziona così. E Mariana li raccoglie, è un po' come se fosse il direttore, no? Di un giornale, giusto? Sembra una cosa importante. Però è così, è vero, c'è un bel lavoro da fare. Allora, forse tu, leggendo qua e là gli articoli dei tuoi blogger e magari quelli che hai scritto tu stessa, sai rispondere a queste domande. Sì, perché il sito si chiama appunto Econote, perché vogliamo veicolare il messaggio che la sostenibilità è una cosa semplice, fatta di piccole azioni quotidiane. Anche gli interventi che mi hanno preceduto dimostrano appunto che la sostenibilità è un qualcosa che si basa sulla consapevolezza e quindi sull'informazione, sulle abitudini e sui comportamenti ecosostenibili. Quindi, partendo dalle tue domande e dalle curiosità che hanno scritto i tuoi ascoltatori, potremmo dire che assolutamente piatti, bicchieri o comunque stoviglie di plastica non si riciclano e quindi è bene non utilizzarle. Ma c'è una soluzione, ci sono stoviglie di plastica che sono fatte in materiale biocompatibile. E questo lo vediamo da un marchio, giusto, che c'è sulla confezione, immagino. Esatto, esattamente. E quelle lì vanno a finire direttamente nell'umido perché si degradano. E quindi possiamo buttarle non nel cestino, diciamo così, dedicato alla plastica, ma lo buttiamo in quello dell'umido dove buttiamo anche i rifiuti. Quindi piatti e scarti di mangiare, che non dovrebbero esserci, però ci sono, e tutti nello stesso sacchetto. Sì, però attenzione, mi permetto di fare una puntualizzazione. Devi. I piatti e bicchieri di plastica, cioè già la denominazione ci trae in inganno, ma non vanno a finire nella plastica perché non sono riciclabili. Vanno a finire nell'indifferenziato e quindi in discarica, in quella frazione che noi dobbiamo assolutamente ridefinire, ridimensionare, che non va differenziare, che non si può differenziare e non si può riciclare. Quello è il problema, è quello che dobbiamo far capire alle persone ed è per questo che si deve ridurre il più possibile l'utilizzo di queste stoviglie. Senti, Mariana, addirittura il Grande Fratello quest'anno voi l'avete visto con un occhio, io non l'ho visto affatto, ma voi l'avete visto con un occhio invece completamente diverso rispetto a quello dei media. Il pezzo si intitola L'eco occhio del Grande Fratello, l'undicesima edizione è stata eco-friendly perché gli autori hanno voluto praticamente rifare la casa da capo. Sono 1600 metri quadri di casa del Grande Fratello con i suoi abitanti più spiati, insomma, d'Italia, e è fatta con materiali ecocompatibili. Sfrutta le finestre per l'ingresso del sole e quindi il riscaldamento, però la cosa importante è che sì, possiamo avere anche una casa sostenibile, un po' anche come diceva uno degli ospiti precedenti, però il comportamento che noi adottiamo, quindi io mi auguro, anche io non lo guardo, lo confesso, però mi auguro che i ragazzi della casa adottino comportamenti sostenibili tipo quello di chiudere il rubinetto quando si insaponano, oppure differenzino i rifiuti, oppure che il loro pasto sia a chilometri zero, quindi proveniente comunque dalla zona limitrofa. E di questo poi si è parlato anche spesso con Davide Paolini. Io poi volevo chiudere, gli articoli ovviamente sul blog sono tantissimi su econote.it, però sul limone delle meraviglie, questo limone arrivato da Terzigno, frutto dell'inquinamento, e invece non è assolutamente così, è un limone mostruoso, sembra un drago verde. Sì, infatti c'è una fotografia appunto su econote.it. Il problema di quel limone è che è frutto, alcuni fitopatologi della Federico II l'hanno poi analizzato, perché questa fotografia ha fatto proprio il giro del web, come dicevi tu, e hanno rilevato che questo limone è frutto di un acaro che si chiama acaro delle meraviglie. Quindi, insomma, sostanzialmente quel limone non è frutto dell'inquinamento ma di un parassita. Questo però non ci deve trarre in inganno, perché senz'altro l'inquinamento ha dei riflessi sulla natura, su quello che beviamo, su quello che mangiamo e quindi anche sui limoni. Ecco, quello sicuramente, ma non su quel limone in particolare. Ecco, su quel limone in particolare no, anche se oggi è uscita sui giornali un'altra fotografia, stavolta di un arancio, se non mi sbaglio, che ha una forma particolare, ma anche quello è frutto di un acaro e quindi non dell'inquinamento in quel caso specifico. Certo, grazie Mariana Sansone, complimenti per il blog, a te e tutti i blogger che vi partecipano. Ciao, grazie. Grazie. Econote.it. E intanto c'è una società che distribuisce energia elettrica che ha però presentato un oggetto molto utile probabilmente. Che si può acquistare, costa 70 euro, si chiama conta corrente, funziona però con qualunque tipo di fornitore elettrico si abbia, e serve proprio a contare il consumo della corrente. È una sorta di pannello con display, si installa molto facilmente senza bisogno di nessun tecnico assolutamente a casa, e la cosa che mi ha incuriosito è il fatto che permette davvero di capire quanto consuma accendere una lampadina, tenere accesa quella lampadina, quanto consuma non so, il forno elettrico, perché il momento in cui si accende qualcosa, subito questo pannello ci mostra la variazione elettrica, ci dice quanto stiamo consumando, e quindi la consapevolezza di vedere costantemente quanto stiamo consumando e quindi di conseguenza spendendo è utile proprio a capire cosa possiamo fare anche a meno. Magari quella lampadina che lasciamo sempre accesa cominciamo a tenerla spenta, oppure capiamo il computer che sembra non consumare niente, si ha sempre questa idea che il computer tanto, in realtà il computer consuma molto e spesso sta acceso parecchio tempo, e quindi proprio grazie a questo apparecchio è possibile controllare in qualche modo la propria bolletta, ma soprattutto il consumo energetico, e avere la consapevolezza di quanto costi l'energia e quanto si venga appunto consumata dagli attrezzi, dalle apparecchiature che usiamo ogni giorno. Si chiama appunto conta corrente. Chi volesse investire in questo senso, 70 euro questo è il prezzo, però diciamo che è l'unica possibilità per il momento in Italia di un attrezzo di questo tipo. Dobbiamo dare gli aggiornamenti sul traffico. Io ho già pronto il prossimo ospite, perché vorrei far capire come il nostro discorso ecosostenibile oggi possa riguardare anche la nostra salute. Strade in diretta. Lungo la 14 Adriatica ci sono dei rallentamenti per lavori tra Civitanova Marche e Loreto sulla carreggiata nord. La circolazione si mantiene scorrevole sul resto dei percorsi. In città Torino è in svolgimento la maratona. Sono previste ancora numerose chiusure e modifica la viabilità, in particolare nelle zone attorno a Piazza Castello, via Roma e Piazza San Carlo. Anche oggi resta chiusa per lavori la 3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto compreso tra Lauria Nord e Lago Negro Nord in entrambi i sensi di marcia. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Per il momento è tutto, noi torniamo tra circa mezz'ora. Il riposo del guerriero. Fabio Firenzuoli, buona domenica. Buongiorno e buon ascolto a tutti gli ascoltatori. Direttore del Centro di Medicina Naturale dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli, parliamo di fitoterapia, quindi è possibile guardare al nostro corpo e anche curarlo con le erbe, è vero? Funzionano? Sì, questo è vero, anche se diciamo pensiamo ad una considerazione importante, l'uomo da sempre ha utilizzato le piante. Si è partiti da lì, voglio dire. Si è partiti da lì, esatto, e anche se in verità soltanto da 200 anni circa utilizziamo le piante medicinali in virtù delle sostanze chimiche che ci sono dentro, perché da quando è stata scoperta la morfina nell'oppio nel 1803, ecco, da allora abbiamo cominciato a guardare alle piante non più come fonte e contenuto di energie quasi magiche, ma in realtà come contenitori di tante sostanze chimiche che possono essere estratte, ovviamente naturali, ma che possono essere estratte con vari metodi e che poi possiamo utilizzare sia in integratori sia in medicinali, sia in cosmetici o addirittura in alimenti in quanto tali. Ecco, ecco, intanto proprio per questo motivo voglio ricordare che curarsi con le erbe, tanto per dirla semplice, può in realtà compromettere invece una cura di tipo chimico, medico, come siamo abituati a pensare, perché c'è un'interazione vera e propria che a volte può contrastare la medicina che stiamo prendendo, vero? Sì, questo è un concetto importante che spesso è stato trascurato, è sempre stato pensato che tutto sommato... Tanto non mi fa male, ecco, quello è il senso. Tutto al più non fanno niente. Esatto, In realtà questo non è vero, perché quando una qualunque terapia ha un effetto, in realtà lo può avere sia positivo che negativo. le interazioni tra erbe e farmaci in verità possono anche essere positive, nel senso che possiamo utilizzare tante piante anche per esempio per prevenire l'effetto collaterale di alcuni farmaci. Sì. Se però non sono conosciute, in realtà possono anche creare dei problemi, perché ci sono delle piante, delle erbe ad esempio che aumentano la tossicità di alcuni farmaci, o addirittura esattamente al contrario ne annullano l'efficacia. Ecco. Quindi è fondamentale sempre informarsi, assolutamente. Sì, l'importante è quando un paziente sta facendo una qualunque terapia con dei farmaci, qualora volesse assumere anche integratori, prodotti di tipo vegetale, medicinali vegetali e quant'altro, che ne parli sempre, se non altro col proprio medico, o altrimenti con un esperto, che può essere il farmacista, anche l'erborista o il medico esperto in fitoterapia. Negli ultimi anni c'è più attenzione da parte degli italiani verso questo tipo di medicina? Sì, questo sta crescendo non solo, diciamo una ventina d'anni fa, sostanzialmente perché andavano alla ricerca, si andava alla ricerca tutto sommato di alternative al farmaco. Oggi perché al di là di questo, di questa concezione, c'è anche molta ricerca disponibile che ha provato l'efficacia di tanti rimedi naturali, che oltretutto per alcune è stata dimostrata pari efficacia rispetto ai farmaci di sintesi, con addirittura minori effetti collaterali. Ecco, Fiorenzuoli, parliamo dei fiori di Bach, che vanno tanto di moda e se ne parla in continuazione. Hanno a che fare con la fitoterapia, con la medicina naturale, o assolutamente no, perché partono da un principio completamente diverso? No, solo apparentemente hanno a che vedere con la fitoterapia, perché si parla comunque di fiori, di piante e quant'altro, però i prodotti che vengono utilizzati nell'ambito di questa categoria fiori di Bach in realtà appartengono a preparazioni di tipo omeopatico, che comunque hanno un rapporto con l'organismo non di tipo farmacologico, ma che agirebbero sostanzialmente sulla componente emozionale dell'individuo. Quando si parla invece di fitoterapia, si parla di estratti veri e propri, utilizzati in funzione delle sostanze che contengono. Chimiche, certo. Chimiche, l'ultima domanda è questa: chi volesse informarsi o avvicinarsi a una terapia di questo genere, che cosa può fare per non sbagliare? Beh, per non sbagliare intanto che si rivolga a delle persone esperte, che possono essere per l'acquisto dei prodotti, di integratori e quant'altro, sicuramente l'erborista e il farmacista, in particolare quando si utilizzino dei medicinali vegetali. Mai acquistarli su internet, mai acquistarli nelle vendite porta a porta. Quando invece si vogliano utilizzare per curare veramente una malattia definita, ecco, conosciuta, allora bisogna rivolgersi a un medico. Sempre e comunque, appunto, perché la medicina naturale funziona, abbiamo fatto capire anche perché. Grazie, dottor Fiorenzuoli, buona domenica. A voi, grazie. Grazie davvero, è importante appunto sapere, ma informarsi in modo corretto per non cadere poi in trappola e magari proprio sbagliare, in qualche modo farsi del male. Come avete sentito, non è vero che siccome è naturale al limite non fa niente, assolutamente no, funziona. E io vi ricordo il numero, tra poco giocheremo infatti col mistero in 24 minuti, fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it per voi, 800 24 00 24. Formaggio Montasio DOP, con il contributo della Regione Veneto, vi presenta Il Gastronauta. Davide Pollini, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di terra proprio, guarda, di ecologia, di chilometri zero. Hanno accennato ai chilometri zero prima, uno dei nostri ospiti. I chilometri zero magari fossero reali, perché in giro per l'Italia molti raccontano chilometri zero, poi si va a chilometri 100, perché è quasi impossibile fare una cucina a chilometri zero, ad esempio dove non c'è l'olio. Mi chiedo come facciano in altre parti dove non c'è pesce, dove non c'è mare, però comunque è un fatto molto positivo. Io preferisco metro zero, ma insomma. Devo dire che questo slogan di marketing, così come ne sono stati utilizzati altri molti ultimamente, farmer market, cioè vanno benissimo, perché fanno ragionare, fanno pensare anche alla gente, fanno essere molto, ma molto più attenti. Sì. Io molte volte sono molto dubbioso, perché non capisco ristoranti chilometro zero cosa significa, cioè non ne vedo ristoranti che usano prodotti sani, controllati. Ecco, tu dici basterebbe quello, basterebbe del, quello. Del territorio, se è un chilometro e mezzo mi va bene, perché se uno mi mette chilometri zero, allora vorrei andare a misurare, insomma. Senti Davide, appena uscita la tua guida, io so che funzionano, ma soprattutto hanno una grande eccellenza dal punto di vista della qualità della cucina, i posti che vendono dei cibi, sì. E poi li cucinano anche. Come, sì, va quest'anno? Sono quelli che io ho chiamato dietro al banco, sì. E devo dire che stanno crescendo e magari ce n'è qualcuno anche che farà chilometro zero, perché ci sono ad esempio dei dietro al banco di macellai, ce n'è uno ad Arzignano che è un macellaio, ce n'è uno a Roma di un panettiere, ce ne sono altri in giro per l'Italia magari che riguardano il pesce. Ecco, quello è un po' difficile che sia chilometro zero, ma magari sicuramente sono pescherie che si sono trasformati anche in ristorante, macellerie, sì, che si sono trasformate in ristorante e via di seguito. Io credo, questa è una novità che vedo come molto, molto interessante. La gente vuole capire, vuole vedere il prodotto prima che sia cucinato, quindi in questa maniera lo vede. Poi è evidente che come posso dire, i giochi di prestigio possono essere anche in questi locali, per carità, però insomma c'è un maggior controllo. Ecco, poi parliamo anche di vino in questo senso, c'è una manifestazione a Milano dal 27 al 29 novembre, si chiama semplicemente Uva, la rassegna del vino cosiddetto naturale. Sì, cosiddetto perché, quel cosiddetto tra virgolette, sì, esatto, è molto importante, perché naturale è una definizione davvero molto complicata, molto difficile. C'è chi dice che il vino non è naturale, l'uva riceve una trasformazione. Naturale nel senso, in questo caso, che non si usano diciamo concimi chimici, che non si usa chimica in cantina, che si usano solfiti il meno possibile. Questo vuol dire cosiddetto naturale. Ecco, quindi... Quindi dicevo che insomma sono quei vini che ora vanno sotto, diciamo, l'agricoltura, ecco, è l'agricoltura che è biologica, è l'agricoltura che è biodinamica, non è il vino che è biologico e il vino che è biodinamico, perché non può essere. L'unica cosa è l'agricoltura che può essere o di ispirazione o di concezione biologica o di concezione biodinamica o concezione naturale, nel senso che molti non si dichiarano tali né biologici né biodinamici, però non usano chimica, non, certo, usano diserbanti e via di seguito. Certo, cosa succederà in questi tre giorni? Cosa si potranno assaggiare i vini? Si conoscerà? In questi tre giorni si potranno assaggiare, saranno presenti circa 80 produttori di vino cosiddetto naturale che, sì, arriveranno dall'Italia, arriveranno dalla Slovenia, arriveranno dalla Francia, perché diciamo che questo movimento sta crescendo in alcuni paesi in maniera molto forte, in Francia è molto forte e anche in Slovenia, e in Italia anche comincia a essere un gruppo abbastanza importante. Quindi ci saranno le degustazioni, ci saranno moltissimi seminari e degustazioni, moltissimi seminari per capire, per comprendere appunto questo concetto di cosiddetto naturale. Ecco, ci sarà anche un grosso convegno anche, sì, e ci saranno delle degustazioni abbastanza importanti appunto di questi vini fatti da diciamo grandi esperti e opinion leader del settore. Ecco, allora a Milano dal 27 al 29 novembre ovviamente prossimi, c'è un sito che è semplicemente uva.it per avere tutte le informazioni e capire anche cosa accadrà giorno per giorno. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. A presto. Ciao, grazie. Io vi ricordo il numero verde, tra poco infatti giocheremo con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24. Per risolvere il mistero avrete a disposizione degli indizi musicali che dovrete ascoltare. Chiaramente più indizi sentirete, più il premio si abbasserà, ma partiamo da 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. La risposta potrà essere o un personaggio oppure una delle tante notizie della settimana. Il numero verde per prenotarvi, ve lo dico subito, 800 24 00 24. Intesa San Paolo per voi. Le risposte degli esperti su risparmio, investimenti, situazione del mercato. In questo periodo meglio il mercato azionario o quello obbligazionario? Esiste un investimento sicuro? Vorrei investire, ma sono spaventato dall'instabilità dei mercati. Vai sul sito di Radio 24, entra nella sezione Intesa San Paolo per voi e lascia le tue domande.

forse questa cosa non è possibile in tutti i comuni, però grazie, perché questo è un argomento che a quanto pare interessa molto, vuol dire che tanti di voi usano questo tipo di stoviglie. E poi invece molti chiedono il contacorrente, c'è proprio un sito che è contacorrente.it, ecco, per avere le informazioni e capire quanto si consuma anche accendendo semplicemente una lampadina. Siamo pronti invece con il nostro cronometro 800240024. Un mistero in 24 minuti. Eccoci qui, 1000 euro per voi da spendere sulla feltrinelli.it, e quindi preparatevi anche magari a usare questi soldi per comprare i libri in formato elettronico, un bel modo per risparmiare sulla carta, visto che è possibile ormai da qualche giorno anche fare questo tipo di acquisti. Il primo indizio della settimana, eccolo qua. Per tutta la vita, questo è il primo indizio. Annalisa da Modena, buona giornata. Buongiorno. Ciao Annalisa. Sì, ti sentiamo. Ciao. Senti, devo dire una cosa, continuo a dimenticarmi, mi dispiace, ma abbiamo talmente tanti argomenti oggi, sì, persone da intervistare, qualcuno purtroppo è saltato, non siamo riusciti a sentirlo, però volevo ricordare, visto che è ecosostenibile la puntata di oggi, che c'è la settima fiera dell'eccellenza biologica regionale dal 19 al 21 novembre, si chiama BioLife 2010, e quindi se volete alla Fiera di Bolzano, questo accade, e andate sul sito fierabolzano.it per avere tutte le informazioni su questa manifestazione, appunto BioLife 2010, dal 19 al 21 novembre, e dalle 9.30 alle 18, ecco, lo dico perché avremmo voluto parlare anche di questa manifestazione, non ce l'abbiamo fatta, però volevo assolutamente segnalarvela. Allora Annalisa, torniamo al nostro mistero. Primo indizio, 1000 euro, cosa vuoi fare? Ma io tento, vado proprio subito, secondo me è collegato alla morte del produttore Dino De Laurentiis. Certo, grazie Annalisa che ci ha regalato splendidi film, grazie davvero, buona giornata. Annalisa potrebbe avere anche risposto in modo corretto, ma lo scopriremo soltanto allo scoccare del 24esimo minuto. Cinzia da Trento, buona giornata. Ciao, buongiorno. Eccoci qui, andrai a BioLife, alla Fiera dell'Eccellenza Biologica Regionale? A Bolzano. Ci sentiamo, sì, proviamo ad andare. Non sei così distante. Allora, no, cosa stai preparando? Se stai preparando da mangiare, dopo presto? No, oggi sono ospite da mio fratello. Che è, è la cosa più comoda la domenica, esatto, essere ospite da qualcuno. Allora, Cinzia, cosa vuoi fare? Allora, io proverei a dare la risposta. Anche tu 1000 euro, dimmi. Esatto. Stavo pensando al satellite italiano che hanno rinviato il lancio dopo finalmente la mandata in orbita, SkyMed. Grazie Cinzia, buona giornata. Niente a voi, ciao, anche ciao. Per te la risposta potrebbe essere quella giusta, ma lo scopriremo solo più tardi. Luciano della provincia di Bari. Pronto? Ciao Luciano, buongiorno. Ciao, complimenti per la trasmissione e buona domenica. Grazie, buona domenica anche a te. Allora, senti, ma sì, scalando a quanto si passa? Un euro. No, sto scherzando, 500 no, euro, dimezziamo il no, premio. No, allora provo, dai, provo 1000. Perché 500 proprio non ti piacciono? Ma vorrei comprare, vorrei avere molto più. Ah, tu sei di quelli o tutto o niente, così funziona la vita. Ma dai, buttiamola lì, va bene. Allora, Luciano, o tutto o niente. Secondo me si tratta di Califano, della storia di Califano, un po' tutta, sì, la vita. Sì, c'è stata anche l'intervista della Zanzara. Grazie Luciano, buona giornata. Te, ciao, buona giornata, ciao. Ciao. Vincenzo da Pisa. Buongiorno, buona domenica a tutti. Ciao Vincenzo, allora, cosa sì, vogliamo fare? Io proverei subito. Anche tu. E niente, non sì, c'è niente, però è pazzesco, Ci sono le puntate dove ogni ascoltatore chiede un indizio e le puntate invece dove proprio il secondo indizio non appare fino a quasi alla fine. Vincenzo, allora, anche per te 1000 euro qua sul piatto. Sì, allora io provo a dire Nicholas Green. Grazie Vincenzo. Va bene. Bravo, buona giornata. Ciao. Claudio da Padova. Buongiorno. Allora, il bravo è riferito semplicemente alla capacità di associare gli indizi. E non devo aggiungere niente. Claudio, allora, che cosa vuoi fare? No, io ascolterei un indizio. Eccoci qua. Allora, scendiamo a 500 euro. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli. La storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. A proposito di piatti, si continua la polemica tra piatti di plastica, riciclare o meno. Grazie, perché comunque il riposo del guerriero chiaramente è un rotocalco e quindi insomma apriamo gli argomenti, ma non li dibattiamo. Insomma, sentiamo anche le opinioni da chi si occupa degli argomenti che mano a mano trattiamo. È molto bello invece il fatto che il dibattito arrivi dai vostri SMS, sarebbe bello parlarne. Purtroppo non è la sede per farlo, ma vi ringrazio per quello che state scrivendo e per l'attenzione. Claudio, allora, noi ti abbiamo fatto ascoltare il secondo indizio, siamo a 500 euro e spero che questo indizio ti possa aver aiutato in qualche modo. Proviamo. Io dico Gushka ha presentato la sua biografia. Ne sono uscite tante, tra l'altro, questa settimana. Grazie Claudio, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Monica da Pisa. Ciao. Ciao Monica. Allora, siamo a 500 euro. Abbiamo intanto dimezzato il premio. Due indizi. Hai qualche ideuzza o vuoi un altro indizio? Esaurite, quindi ascolto un'altra canzone. Adesso però voglio capire una cosa, se sono davvero esaurite o se non le hai mai avute, perché... Sì, avute. Ah, lei ha avuto. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, e chi ha dato. E allora ecco il terzo indizio. A sei vecchio, tutta quella smania che sai tu, vecchio sì, e sei tagliato fuori, quelle tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragione non hai tu. È un testo straordinario, quello di Mariella Nava, Di spalle al muro, interpretata qui da Renato Zero. Allora, io ti faccio pensare, Monica, do gli aggiornamenti sul traffico e poi mi darai la tua risposta. Ogni uomo deve fare delle scelte. Ogni scelta è come una porta che viene aperta. Ma l'uomo che apre una porta chiude tutte le altre. A meno che l'uomo non apra la porta del suo garage. Il piacere è avere una passione che le racchiude tutte. Nuova BMW X3 con BMW Efficient Dynamics, cambio automatico steptronica, 8 rapporti e sospensioni elettroniche Dynamic Damping Control. Venite a scoprirla il 20 e il 21 in tutte le concessionarie BMW. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Lungo la 14 Adriatica ci sono dei rallentamenti a causa di lavori tra Civitanova Marche e Loreto sulla carreggiata nord. Code per operazioni doganali verso la Svizzera sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Segnaliamo che da oggi tornano i treni su entrambi i binari fra Taggia e Ventimiglia e Liguria. Sono infatti terminati questa notte gli interventi di messa in sicurezza del tracciato ferroviario colpito da una frana durante il maltempo delle scorse settimane. La circolazione però resta comunque rallentata. In questo tratto sono dunque possibili ritardi. Ricordiamo in chiusura il numero verde per le vostre segnalazioni, 800 083622. 22. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Monica, eccoci qua, ti hanno dato tempo di pensare alla tua soluzione. Allora, forse ho fatto così dei collegamenti e pensavo al crollo di Pompei. Eccolo lì. Grazie Monica. Prego. Buona giornata, ciao, grazie davvero. 800 24 0024. Domenico, dalla provincia di Cremona. Ciao. Ciao Domenico. Buona giornata. Anche buona a te. Domenica a tutti. A te buon tutto, perché chiamandoti esatto. Come la giornata, cosa vuoi di più? Niente, la risposta che, alla quale ero sicuro al 100% era la presenza appunto del papà di Nicholas Green qui per l'Aido appunto. Sì. Però purtroppo non posso più darla, giustamente. No, cioè, se vuoi sì, ma non serve a niente. Sì, non serve a niente, però ero sicuro così di questa cosa, quindi dico Sanssouci, la liberazione dopo anni e anni di... di segregazione in casa. Sono 15 anni, 7 in casa e gli altri 7 là in galera. Quindi proprio comoda. Grazie buona Domenico, grazie davvero. Ivana, la provincia di Parma. Sì, buongiorno. Ciao Ivana. Buongiorno. Allora, due indizi soli abbiamo scoperto fino adesso. Siamo ancora a 500 euro, un bel malloppo. Sì, io chiederei un altro indizio. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Ah no, siamo già al terzo indizio. Cosa dico? Siamo a 300 euro, è vero? Quindi tu scegli il quarto indizio, quindi scendiamo a 200 euro. Eccolo qui il quarto indizio. E poi si troveremo come l'estate a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. L'artista che Mara Maionchi avrebbe voluto scoprire è la canzone che purtroppo viene cantata in tutti i karaoke italiani e spesso anche male. Ivana, sei concorde con me? Sì, l'hai cantata sì. Anche tu, dice magari tu bene, non lo so. No, male anche tu. Male anche tu, va bene. Però è vero, immancabilmente se tu fai una serata karaoke questa canzone c'è sicuramente, sì, uno beh. Può scommetterci. Allora Ivana, abbiamo ben 200 euro per te, quarto indizio. Allora, io penso che la risposta sia già stata data e sia crollo di Pompei. Per cui, essendo già stata data, io dico il ministro Bondi e tutta la polemica che poi c'è stata successivamente al crollo. Grazie Ivana, buona Ciao. Giornata. Ciao. Antonio da Avellino. Ciao Stefano. Buongiorno Antonio. Da tutti gli indizi avrei due risposte, però. Vogliamo riascoltare gli indizi o vuoi un altro indizio che tra l'altro è anche l'ultimo? L'altro indizio a quanto farebbe scendere? Andiamo a 100 euro. No, vabbè. Aspetti. No. Allora, ascoltiamo i quattro indizi che sono andati in onda fino a questo momento. Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli. Eccoci qui, allora. Allora, ho pensato, non mi sembra che ci sia stato qualcun altro a dare questa risposta, è la storia di Califano che ha chiesto. In realtà l'hanno già data. Tu puoi dare la notizia, però. Nel senso che hanno dato, se non mi sbaglio, ma hanno detto il personaggio, tu puoi dare la notizia se vuoi rimanere qui. Oppure puoi cambiare. No, allora cambio perché Eccolo ne avevo là. Due. C'è una storia un po' più locale che sarebbe quella di un finto prete in Veneto che si è spacciato prete per 20 anni. Ecco, meglio prete che chirurgo, perché è successo anche questo, voglio dire, quindi vabbè. E sai che non è la risposta giusta? Però ti ringrazio. Ci riproviamo la prossima volta, infatti. Giusto? Va bene. Ciao. Grazie, ciao, ma la risposta giusta questa volta c'è. Macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia, no, non ho detto gioia. Addirittura polemica anche sul testo di questa canzone. Luciano da Bari, complimenti. Oh, grazie. Eccoci qua. Grazie. Finalmente ho fatto bene a rischiare, dai. Hai fatto bene a rischiare. Tutto è subito e tutto ti sei portato a casa. 1000 euro da spendere grazie. Sulla Feltinelli.it. Grazie a te. Benissimi, grazie. Bravo io tu. Ho l'indizio di vita spericolata. Guarda. Hai detto è lui. Sospiro, è lui. È lui, beh, certo. Sì, dai. Per tutta la vita, per il vitalizio della legge Baccelli, la storia, perché la Polverini ha detto che ha rappresentato e raccontato la nostra storia, spalle al muro, perché parla di vecchiaia, e vita spericolata, perché quella che ha condotto. Cruciani su con la zanzara. Certo. Adesso vedremo come andrà a finire. Grazie e complimenti, grazie ancora, Luciano. Voi, ciao. Grazie. Avete visto che i 1.000 euro arrivano ogni tanto, io sono molto contento per questo, davvero. Ci riproviamo anche la settimana prossima, vi aspetto puntuali come sempre alle 10 nel riposo del guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, all'assistenza oggi di Luca Rinaldi e alla regia di Filippo Aureggi. A voi che avete ascoltato, continuate a farlo. Buona domenica da Stefano Gallarini.